quando scrivo un messaggio, due ore per farlo, poi lo cancello. Non mi convince, non sembra mai adatto, come un pastore dentro un castello. Non di mattoni, ma fatto di sogni, mai realizzati come i cartoni, a cui non credo più, tipo quelli che guardavo da piccolo. Su Rai Gulper troverò nel grano un ago, perché la vita è un po' puttana e certe volte può far male. Si diverte, illude l'uomo, lo distrugge con il tempo, lo trasforma lentamente. Liberi d'amare, ma schiavi dell'amore. E siamo vita che scorre a alta velocità, un sogno scappa lontano, prima o poi tornerà. E siamo luce che brilla quasi come una stella, la continua ricerca della felicità. E siamo vita che scorre a alta velocità, un sogno scappa lontano, prima o poi tornerà. E siamo luce che brilla quasi come una stella, la continua ricerca della felicità. Abbiamo tutti le stesse scarpe Adidas, ho un amico e non so dove abita, l'ho conosciuto su un social, caspita, wow, sai che novità. Giovani più anziani dei vecchi, mobili solo sulle scale mobili, per comprare mobili all'Ikea, rende bene l'idea. E ballerò tutta la notte in questa festa che è la vita, puoi sposare 100 donne, ne amerai soltanto una. La scienza può arretrare, ma mai andare oltre, e se fosse un'illusione, hai sbagliato dimensione. E siamo vita che scorre a alta velocità, un sogno scappa lontano, prima o poi tornerà. E siamo luce che brilla quasi come una stella, la continua ricerca della felicità. E siamo vita che scorre a alta velocità, un sogno scappa lontano, prima o poi tornerà. E siamo luce che brilla quasi come una